Questa sera io voglio parlarvi non tanto al cuore quanto al cervello, perché sapete, molte volte si punta sull'emotività, sul contesto, su quello che succede, ma io desidero veramente che ognuno di noi, ognuno di voi questa sera, mi segua in una misura razionale. Perché quello che faremo non è altro che guardare quello che Gesù ha detto in funzione di quello che stiamo vivendo. Infatti quello che faremo è guardare il discorso profetico di Gesù per vedere quello che, se ha detto qualcosa e quello che ha detto ha una valenza per noi oggi. Perché se noi capiamo che quello che Gesù ha detto ha una valenza per noi, allora dobbiamo prendere seriamente tutto quello che la Bibbia ci dice, ed è proprio l'obiettivo che io ho questa sera con ognuno di noi, ognuno di voi, quello di dimostrarvi che la Bibbia è vera e noi dobbiamo prendere seriamente gli avvertimenti, i consigli e i comandi che la Bibbia ci dà. Tutto inizia mentre Gesù è con i discepoli che esce dal Tempio. C'è la foto del Tempio? E allora io e Raffaella ci siamo. Vedete il colonnato, vedete tutta la costruzione. E questo era il Tempio di Gerusalemme che Erode, il re, aveva fatto restaurare con dei colonnati, con delle pietre preziose per dei fini politici. Non è mai cambiata in fondo la storia. E proprio mentre Gesù stava uscendo dal Tempio, è scritto così, la Bibbia ci racconta, e noi leggeremo dal Vangelo di Matteo, dal Vangelo di Marco e dal Vangelo di Luca lo stesso discorso che Gesù ha fatto. Ora, io quando leggerò, e voi vedete le parole proiettate dietro, non è quello che dico io, è quello che la Bibbia dice. Gesù uscì dall'area del Tempio e se ne andava per la sua strada, quando i suoi discepoli gli si avvicinarono per richiamare la sua attenzione sugli edifici del Tempio e indicarglieli. Ma egli rispose loro, vedete tutti questi? In verità vi dico che non rimarrà qui una pietra sull'altra che non venga buttata giù. Ora, deve essere stata un'affermazione che ha lasciato a bocca aperta i discepoli, ma è stata un'affermazione incredibilmente puntuale. Infatti, 40 anni dopo, i Romani hanno saccheggiato Gerusalemme e hanno letteralmente distrutto il Tempio, che non è rimasta una pietra sull'altra. Però non era ancora successo, ma i discepoli erano rimasti lo stesso impressionati, perché avevano visto Gesù resuscitare Lazzaro, avevano visto Gesù moltiplicare i pani e i pesci, avevano visto Gesù calmare una tempesta, quindi avevano intuito che quello che diceva Gesù era da prendere abbastanza seriamente. E quindi poco dopo loro sono ritornati sull'argomento e hanno di nuovo interrogato Gesù. E mentre Gesù era seduto sul Monte degli Ulivi di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli chiesero in privato: dici, quando avverranno queste cose? E qual è il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Loro non hanno messo per niente in dubbio quello che Gesù aveva detto, anzi si volevano preparare. Per questo hanno detto: Gesù, facci capire quando e come succederà. Ed egli disse: state in guardia e guardate di non essere sviati, perché molti verranno nel mio nome, appropriandosi del nome di Messia che mi appartiene, dicendo: io sono il Salvatore, affermando: il tempo è vicino, non andate dietro a loro. E quando sentirete parlare di guerre e di insurrezioni, non allarmatevi, non vi fate prendere dal panico e non spaventatevi, perché tutto questo deve avvenire, ma la fine non verrà subito. Poi disse: sorgerà nazione e si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno. Queste sono le parole di Gesù di 2000 anni fa. A me sembra molto vicina alla cronaca che sentiamo ogni giorno ai telegiornali. Io sono appassionato dei telegiornali, i miei figli lo sanno, almeno due, per vedere se dicono la stessa cosa. Ma questo sembra proprio l'ultimo telegiornale. E sapete, io ho fatto una ricerca un po' in rete. Secondo quello che è riportato da ACLED, che è un'organizzazione non convenzionale che si occupa di raccogliere i dati per monitorare i conflitti, al momento ci sono quante guerre secondo voi nel mondo? 59. Quelle che vedete dietro proiettate sono tutte le zone di guerra del mondo, e alcune di queste guerre vanno avanti da decine di anni. Qualcuna va avanti per prendere possesso di un territorio dove c'è petrolio, dove ci sono ricchezze, dove ci sono minerali preziosi. Altre guerre sono guerre politiche, altre guerre sono guerre per il traffico di droga. Ma comunque nel mondo adesso ci sono 59 guerre, e c'è una classifica di guerre maggiori o di guerre minori. Le guerre maggiori sono quelle dove perdono la vita almeno 10.000 persone all'anno. E ci sono 5 guerre oggi nel mondo in cui perdono la vita almeno 10.000 persone all'anno. E sono il conflitto in Afghanistan, la guerra civile in Myanmar, la crisi che c'è nello Yemen, la guerra russo-ucraina e il conflitto del Tigray in Etiopia. Queste sono le guerre maggiori, ma in tutto ce ne sono 59. Sapete che cosa è interessante? Che tutti quanti dicono che la guerra è stupida, che la guerra è ignorante, che la guerra non risolve, che la storia ci avrebbe dovuto insegnare che la guerra non si fa perché non conviene, perché non cambia niente. Ma sapete il sistema che noi abbiamo adottato per eliminare la guerra? Armarci sempre di più. E trovare le armi sempre più sofisticate e sempre più micidiali per scoraggiare la guerra. Cioè, noi diventiamo sempre più bravi per fare la guerra perché non vogliamo fare la guerra. Questo è il meglio che noi sappiamo esprimere nei confronti di questo. La Bibbia dà una spiegazione un po' diversa. In Geremia è scritto: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Il cuore dell'uomo. La Bibbia dice che è lì il problema. Però Gesù continua il suo discorso e apre con i discepoli un altro capitolo e dice: ci saranno terremoti potenti e violenti, e in vari luoghi carestie e pestilenze, malattie epidemiche, maligne e contagiose, infettive, mortali e devastanti. Noi adesso stiamo imparando a scoprire il virus della scimmia, non mi ricordo come si chiama, però è l'ultimo arrivato, è proprio quello che è il nuovo. Stiamo ancora facendo i conti con il Covid, con il quale sembra che probabilmente dobbiamo continuare a convivere per un pezzo. Ma io voglio riportarvi qualche articolo sulle pestilenze e sulle carestie, sulla fame. Un report della FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi non è l'ultimo arrivato, per l'alimentazione e l'agricoltura, afferma che dall'inizio del 2021, devo leggere per essere preciso, dall'inizio del 2021 270 milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare o sono ad alto rischio. Oggi già 174 milioni di persone in 58 paesi rischiano di morire per malnutrizione o mancanza di cibo. 150.000 persone vivono in condizioni di carestia nello Yemen, nel Sudan, in Burkina Faso. Un'altra organizzazione umanitaria afferma che la situazione può solo peggiorare perché la guerra, perché il virus, perché le pandemie, perché la crisi, perché quello che volete, sta distogliendo l'attenzione da quello e ogni Stato sta diventando leggermente più egoista e pensando a se stesso. Quindi le donazioni a favore del sostegno di queste popolazioni, di queste nazioni che stanno morendo di fame letteralmente, scarseggiano, stanno diminuendo, perché ognuno diventa più egoista e pensa a se stesso. Una statistica del WWF dichiara che il 20%, questo lo so a memoria, il 20% della popolazione mondiale dei paesi ricchi vive sfruttando l'80% delle risorse mondiali. E l'80% del rimanente della popolazione mondiale vive con il 20% delle risorse che ci sono nel mondo. Questo è quello che noi siamo capaci di fare. Questo è quello che noi oggi, mentre siamo qui seduti, sta succedendo nel mondo intorno a noi. E ci possono essere tante spiegazioni per queste crisi alimentari, per queste crisi politiche, per queste crisi climatiche, per queste crisi che ci assalgono, alle quali diamo più o meno importanza e diamo importanza se ci toccano più o meno da vicino. La Bibbia dà la sua ragione e dice così: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di danaro, senza affetto per il bene, senza amore per il bene, traditori, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da loro allontanati. Noi siamo toccati quando sentiamo o vediamo persone, i servizi in televisione di gente che muore di fame. Ma di questa emotività quanto poi riusciamo a tradurre in atti pratici che aiutano quelle persone? Questo significa avendo l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza. Comunque il discorso di Gesù va avanti e tocca un altro argomento particolare, e cioè la persecuzione dei cristiani. Ma prima di tutto questo, cioè prima delle guerre, delle carestie, eccetera, eccetera, vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi nei tribunali e alle prigioni, e sarete condotti davanti a re e a governatori per amore del mio nome. Sarete traditi anche dai genitori, da fratelli, da parenti, dagli amici, e alcuni di voi saranno messi a morte, e sarete odiati, disprezzati da tutti perché portate il mio nome. Adesso dietro c'è una cartina della World Watch List, mamma mia, che è la ricerca che fa Porte Aperte annualmente per dare dei numeri che siano provati e siano certi della persecuzione. Io vi do qualche numero, poi potete andare nel sito a verificare. I cristiani perseguitati nel mondo sono circa 360 milioni. I cristiani uccisi nel 2022 sono stati 5.828, più il 24% rispetto all'anno prima. E così ci sono percentuali che parlano di chiese bruciate, che parlano di cristiani arrestati senza processo e incarcerati, di cristiani rapiti e spariti. Quello che Gesù ha detto si è verificato puntualmente, esattamente come è successo per la distruzione del Tempio 40 anni dopo. Adesso che sono passati 2000 anni, puntualmente, sembra una lista alle quali noi facciamo la spunta e le stiamo spuntando tutte. vediamo i terremoti, vediamo la fame, vediamo le guerre, vediamo le carestie, vediamo la persecuzione. Finalmente il discorso di Gesù arriva a un punto di svolta. E questo Evangelo del Regno, sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Ecco la ragione di tutti questi disastri. La Bibbia afferma: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto, ed è Gesù che parla, affinché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. La ragione di queste guerre, di queste carestie, di queste crisi, di questa cattiveria è molto semplice. Il diavolo non vuole che l'Evangelo della salvezza raggiunga tutti gli uomini e che gli uomini, ascoltandolo, possano essere salvati. Lui non lo vuole, vuole rubare, ammazzare e distruggere. E questo ci chiarisce un altro dubbio che può balenare nella nostra mente, che quello che stiamo vivendo non è perché Dio ci sta punendo, perché Dio si è stancato della cattiveria dell'uomo, allora lo punisce con la fame, con i terremoti, con questo e con quest'altro. No, perché Gesù afferma: se quei giorni non fossero abbreviati, quelli che abbiamo letto fino ad adesso, nessuna carne si salverebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni sono stati abbreviati. La verità è che Dio sta facendo il tifo per te, sta facendo il tifo per me, sta facendo il tifo perché noi possiamo ascoltare l'Evangelo ed essere salvati. Gesù parla del suo ritorno e dice: se vi dicono che io sono qua o sono là, non ci credete. Qual è l'Evangelo? Qual è l'Evangelo? L'Evangelo è che perché Dio ha tanto amato il mondo, ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ascoltate bene, o leggete meglio. Dio non ha mandato Gesù nel mondo per giudicarlo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in Gesù non è giudicato. Chi non crede in Gesù è già giudicato, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. È molto semplice. L'Evangelo è che Dio ha mandato Gesù sulla croce affinché tu e io possiamo essere salvati. E il fatto che tu stai ascoltando questa notizia ti rende privilegiato, perché hai la possibilità di scegliere, ma ti rende anche responsabile di una scelta, perché è chiaro: chi crede in Gesù è salvato, chi non crede è già giudicato. Gesù illustra il suo ritorno, dice: ecco il Cristo, se vi dicono eccolo qua ed eccolo là, non gli credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se vi dicono è nel deserto, come per suggerire bisogna andare in un posto specifico, non ci credete. Se vi dicono nelle stanze segrete, come per dire bisogna fare qualcosa di particolare, non ci credete. Perché? Perché come il lampo esce e sfolgora dal levante fino al ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. I discepoli sono rimasti a bocca aperta, un po' come noi, un po' come noi adesso. A bocca aperta, perché sono delle affermazioni così radicali, così importanti, così definitive, che non lasciano scampo, ma anche così incredibili. Dice: come Gesù deve ritornare? E sapete, proprio perché forse Gesù ha visto negli occhi dei discepoli non solo la sorpresa, ma anche il dubbio per dire ma è vero, Gesù ha fatto due esempi per concludere il suo discorso e ha detto: come avvenne ai giorni di Noè a proposito del diluvio, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche nei giorni di Lot. In Genesi 19 è scritta la storia. La gente di nuovo mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava, edificava, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà il giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non scenda a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torna indietro. E qui viene fuori tutta l'urgenza che Gesù esprime in quello che sta dicendo. Ricordatevi della moglie di Lot, perché non lo sa, la moglie di Lot per un ripensamento si è girata indietro, è diventata una statua di sale. Perché chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. E Gesù termina il suo discorso con una illustrazione potente e apparentemente contraddittoria. Io vi dico, dice Gesù, in quella notte due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno insieme, una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Due uomini saranno nei campi, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. E questa è una dichiarazione potente. È potente perché? Perché non dà scampo ed esprime già un giudizio fra chi sarà preso da Gesù e sarà salvato ed erediterà la vita eterna e chi sarà lasciato a se stesso. Perché questo è quello che accadrà. E questo è qualcosa di potente, che non lascia scampo, che non dipende più da te in quel momento, ma dipende da te e da me adesso per la scelta che faremo. Ed è contraddittoria, perché? Perché Gesù dice: due uomini saranno nei campi a lavorare, e nello stesso tempo dice: due donne saranno a macinare, che era un'operazione che si faceva di giorno, o addirittura aggiunge: due uomini saranno nei campi a lavorare. Ora, i discepoli hanno detto: beh, Gesù ha fatto un bel discorso, bello, lungo, ma si sta imbrogliando adesso. Perché come mai? Com'è possibile che due persone possano essere nel letto a dormire perché è notte e altre due possono stare nei campi a lavorare? Era contraddittoria per i discepoli, perché non sapevano che la terra è rotonda e non sapevano, come ha scoperto Galileo Galilei più tardi, che la terra è tonda e gira intorno al sole, e mentre da una parte è giorno, dall'altra parte è notte. Ma sapete che c'è di nuovo? Che Gesù lo sapeva, perché Gesù è stato colui che ha creato assieme al Padre e assieme allo Spirito Santo il cielo e la terra. Quindi non c'è stato nessun fraintendimento, non c'è stata nessuna confusione, c'era soltanto la sovranità di Dio, la sua divinità, il suo essere il Signore dei Signori. E sapete, se è vero quello che è vero, e se è vero quello che Gesù ha detto, allora noi lo dobbiamo prendere seriamente. E possiamo essere scettici. Però per essere scettici, consentitemi, permettetemi, dovremmo fare qualcosa che Gesù ha fatto per dimostrare che siamo non più bravi di Lui, ma almeno bravi quanto Lui, per poter mettere in dubbio quello che Lui ha detto, anche se si è dimostrato così puntuale, così vero. E per esempio noi quello che potremmo fare è morire adesso e risorgere fra tre giorni. Però si devono battezzare, è tutto pronto e non abbiamo tre giorni da stare qui ad aspettare. Quindi è un'ipotesi che possiamo prendere in considerazione, ma non adesso. Un'altra cosa che si potrebbe fare è quella di volare in cielo come ha fatto Gesù. Andate a leggere alla fine dei Vangeli, è scritto che proprio Gesù è volato in cielo e dice a bocca aperta a vedere. Però non sarebbe corretto, perché Gesù era già risorto, quindi già aveva i superpoteri. Avendo i superpoteri ed essendo risorto, è già fuori dalla nostra portata. E allora io ho pensato, e c'è qualcosa che possiamo fare? È vero che Gesù l'ha fatto su un mare in tempesta, però noi ci accontentiamo di meno, noi siamo più buon gustai. Ecco, se qualcuno dice qui, io metto in dubbio quello che Gesù ha detto, perché sono capace di fare quello che ha fatto Gesù, non ti chiedo di morire e di risorgere, non ti chiedo di volare, però qui abbiamo una vasca piena di acqua, che fra poco verrà scoperchiata, e potresti camminare sull'acqua. Questa è una cosa che si può fare. Se c'è qualcuno che vuole provare a venire qua a camminare sull'acqua, quella persona ha il pieno diritto di mettere in dubbio quello che Gesù ha detto, ma dovrebbe fare un'altra cosa. Poi dovrebbe aiutare me a camminare sull'acqua, come Gesù ha fatto con Pietro. Allora, c'è qualche volontario qua che vuole venire a fare questa prova? O preferiamo sottometterci e credere che Gesù è Dio, che Lui è il Signore dei Signori e che Lui ci offre la vita a prezzo della sua? Possiamo fare tutte le nostre riflessioni. Quello che io vi ho letto è scritto nella Bibbia, potete andarlo a verificare in qualsiasi momento. Quello che sta succedendo lo stiamo vivendo ed è quello che Gesù ha detto. E se Gesù ha detto che Lui è la via, la verità e la vita, Lui è la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi se non ci sono volontari che vogliono venire a camminare un po' sull'acqua, e quindi siamo d'accordo che Gesù è almeno un gradino, almeno uno, al di sopra di noi, allora non ci rimane altro che prendere in seria considerazione quello che Gesù ha detto. E la cosa che Gesù ha detto è molto semplice. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Io spero e prego che queste parole, questa verità possano scendere nel nostro cuore e portare il risultato che cambierà la nostra vita.